peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi, come dire, una carrellata, una piccola carrellata, sono tre dischi, di lavori di musicisti che sono perlomeno meno conosciuti e alcuni, in altri casi comunque sono dischi che hanno sicuramente un'importanza artistica, a mio avviso, di alto profilo, ma che sono passati tutto sommato abbastanza in ombra. Si tratta di lavori usciti ormai diversi anni fa, stiamo parlando di degli anni che vanno più o meno dall'inizio degli anni 80 all'inizio degli anni 90. Il primo di cui ascoltiamo alcuni brani è un direttore d'orchestra, pianista, arrangiatore, compositore, Tom Pearson, che sicuramente è ben poco conosciuto, semmai più conosciuto nell'ambito della musica per film o anche della musica, diciamo, classica, allievo anche tra i vari di Leonard Bernstein, ha diretto la prima esecuzione della messa composta da Leonard Bernstein, poi dopo suona anche nel disco della CBS che è diretto appunto da Lenny, ma poi è l'arrangiatore delle musiche di Air. Aquarius, per esempio, si deve alla sua scrittura come arrangiamenti, e quindi ha lavorato sempre in questo ambito. Di questo personaggio Gil Evans ne parlava come di uno straordinario talento, uno dei pochi che avevano qualcosa da dire nell'ambito del lavoro orchestrale. Parliamo appunto degli anni 80 per quanto riguarda Gil Evans, ma poi sono pochi comunque i lavori che ha proposto Pearson, di tipo quantomeno ascrivibile all'ambito jazzistico. E quello più conosciuto e anche più importante è Planet of Tears, ed è sicuramente un lavoro di alto profilo. È stato scritto nel 90, poi è stato pubblicato nel 96, quindi diversi anni dopo. Ascoltiamo un paio di brani presi da questo disco. Thank you. Thank you. Era Tom Pearson, l'orchestra di Tom Pearson. Abbiamo ascoltato alla batteria Feroa Clough, quindi una vecchia gloria, e poi l'assolo di tenore, il primo brano di Scott Robinson, molto bravo. E c'è anche in orchestra Don Byron, ad esempio, per parlare dei nomi più importanti, oppure Lou Marini al contralto. E quindi un'orchestra dove la scrittura è prevalente ed è comprensibile come veniva così apprezzato da Gil Evans. Sembra quasi una continuazione di quello che era il linguaggio di scrittura di Gil Evans. Questo appunto un disco uscito, Planet of Tears, uscito nel 96, musiche scritte precedentemente. Altro lavoro uscito piuttosto in sordina a suo tempo è una delle prime produzioni, anzi la seconda, di Andy Laster, un sassofonista contralto ma anche altri strumenti come il baritono oppure il clarinetto. E Andy Laster è sicuramente un personaggio meno apprezzato e meno conosciuto di quanto meriterebbe. E lo si è ascoltato in diversi contesti, anche come sideman, penso per esempio in quegli anni, specialmente negli anni 90, era nel gruppo di Friedlander che proponeva una musica molto interessante, il gruppo Hydra. Poi anche con Bobby Previte, ricordo un concerto che ascoltato a Verona, dove veramente è stato uno dei momenti migliori probabilmente di Bobby Previte, che aveva la formazione, una delle formazioni migliori che ha avuto. E poi recentemente direi che sempre più si è ripiegato nell'ambito della musica contemporanea, ha inciso qualche anno fa, due o tre anni fa, un disco praticamente di musica contemporanea per la Zadig, e attualmente scrive per trio oppure per quartetto d'archi, collabora con Friedlander, però sempre nell'ambito della composizione classica, diciamo, o contemporanea. E all'inizio della sua attività sicuramente si proponeva come una dei talenti più interessanti da un punto di vista anche della scrittura. Questo è un disco uscito nell'88, anzi è inciso nell'88, poi uscito due anni dopo, con una formazione di tutto rispetto, anzi di alto livello: Andy Laster al contralto, poi Ert Robertson alla tromba, flugelhorn, e Hank Roberts al violoncello, Drew Grass al contrabbasso, poi Phil Hines alla batteria, altro talento un po' smarrito negli anni. È un lavoro, a mio avviso, decisamente di spessore. Ascoltiamo adesso un paio di brani. Thank you. Thank you. Questo era Andy Laster in uno dei primi lavori, Twirler, decisamente con una compagnia di primo livello. Anche Roberts l'abbiamo ascoltato al violoncello, in questi unisono con Drew Grass al basso. Una tessitura nella scrittura compositiva che in quegli anni era molto viva, anche molto condivisa da altri artisti, e che ha lasciato dei segni importanti per quello che poi è stata anche un'evoluzione successiva. Sicuramente una dei momenti più belli anche della costruzione di molti gruppi, della downtown newyorkese. Altro lavoro che ha lasciato un segno importante, stiamo parlando però di qualche anno prima ancora, 1981, è un personaggio che in quegli anni forse era all'apice della sua creatività. Si tratta di Bill Lanswell, molto molto attivo sulla scena, su questo territorio che di confinante tra la musica rock, un certo tipo di musica sudamericana, e il jazz, e anche l'avanguardia naturalmente. E oltre a altri progetti, in quegli anni aveva appena dato vita, insieme ai fratelli Lurie, ai Long Lizard, e questo lavoro è costruito insieme a altri due personaggi, a Michael Baynorn e Fred Maher. Si tratta di un batterista, Fred Maher, batterista, percussionista, e Baynorn, chitarrista. Naturalmente Bill Lanswell si muove un po' su tutto, sulla chitarra, sul basso sei corde, e dà vita a questo progetto Material, un disco intitolato Memory Service, dove compaiono moltissimi nomi importanti, da Fred Frith, che suona chitarra, xilofono, violino, altre cose. Per le chitarre è presente anche Henry Kaiser, Robert Musso e soprattutto Sonny Sherrock, quindi personaggi che hanno segnato quello che era un momento di confine tra l'avanguardia e un certo tipo di sviluppo di un rock jazz, quello per intendersi che partiva dall'esperienza di Ornette Coleman. Poi Billy Bang al violino, George Lewis al trombone, altri, Harry Treadgill al sax contralto, quindi tutti molti personaggi di primissimo livello, e tra l'altro con poche esperienze di condivisione di percorsi progettuali insieme, che danno vita a un lavoro di alto profilo. Anche particolare, appunto, ascoltiamo tre brani presi da questo importante testimonianza di un momento fondamentale poi per quella che sarà un'evoluzione. you've done for America. In your work, you build. Lives, you sustain the core of family and neighborhood. Get back after. The faith, you sustain our religious principles. Specialist, you've dealt in patriotism. The bulwark which supports an America second to none in the world. Questo era, erano alcuni brani presi da, dal gruppo Material, Memory Service, un disco uscito nell'81 che si deve soprattutto alla firma di Bill Lanswell. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, e vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le informazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito a radiocittafugico.it, alla sezione playlist. Salve a tutti, alla prossima. Thank you.